droga migliore che vorrei, ma che non ho avuto mai. Troppo bianca e lucente anche per te, e se ti provi morirai. I meni dei miei silenzi spezzerai, non più timido mi farai. Vizio artificiale in cui cadrei. Per scoprire chi sei.